Hosanna, Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Alleluia. Tukasekela pambo na bashila, muchalo icho bayawe bateyanya. Oh, tukemba no rimbo Rimbo lupia, Alleluia. Tukemba, no rimbo, rimbo lupia, Alleluia. Tukemba, no rimbo, rimbo lupia, Alleluia. Tukemba, no rimbo, rimbo lupia, Alleluia. Tukemba, no rimbo, rimbo lupia, Alleluia. Tukemba, no rimbo, rimbo lupia, Alleluia. Na tukemba, no rimbo, rimbo lupia, Alleluia. Kimulena, Jesu amalena. Kimulena, Jesu amalena. Kimulena, Jesu amalena. Kimulena, Jesu amalena. Kimulena, Jesu amalena. Kimulena, Jesu amalena. Kimulena. Malena, Kimulena, Jesu amalena, Kimulena, Kimulena, Kimulena, Jesu amalena, Kimulena, Kimulena.